Siamo con Annig Raimondi per parlare di Donne Teatro Diritti, una rassegna con focus Diritti nel mondo dal 26 marzo, tre spettacoli di teatro civile al Pacta Salone di Milano. Annig, benvenuta. Benvenuto, grazie mille dell'invito. Allora, vi parlo di questi tre eventi, di questi tre spettacoli del percorso Donne Teatro Diritti, che è un percorso culturale di spettacoli, documentari, video, esposizioni. Questi 3 giorni vedono il 26 marzo Her Story, quelle pazze piazze delle madri, in gioco di parola, di parole per dire. Allora, tutto si svolge fra l'Egitto, la Tunisia, Sarajevo, l'Argentina, quelle pazze delle madri, in gioco di parole che rimanda alle manifestazioni di piazza, tipo Plaza de Mayo, madri e nonne che reclamano figli, nipoti scomparsi. E quindi vengono perciò definite pazze, scendono in piazza e quindi pubblicamente denunciano queste atrocità che continuano ad accadere. Questo è Air Story, quindi siamo su quel fronte. Il giorno dopo c'è Konzertlager, il grande divoramento. È in forma di concerto, racconta la storia di Porraimos, cioè tutto il genocidio di 600.000 Roma e Sinti. In questo caso viene proprio riportata attraverso una ricerca che è stata fatta la musica delle orchestrine zigane che accompagnavano gli ospiti verso il campo di concentramento. Il giorno dopo c'è invece una sorta di narrazione spettacolo di eventi sui sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki. Sono tutto quello che da quel momento, da quella data fatidica, poi è successo, quindi quello che in una narrazione a più voci ha coinvolto con fatti, conseguenze gravissime, i sopravvissuti di quel periodo. Quindi tutto ciò, quindi, questi 3 eventi sono da dati reali, con testimoni diretti, con attori, musicisti, sono eventi compositi di spettacoli, ciascuno un giorno solo, quindi sono eventi speciali. Allora, facendo un passo indietro, Annig, ci racconti un po' di Donne Teatro Diritti? Sì, questa è la nona edizione, quindi ha una sua forte storia. È nato il progetto, ovviamente contro la violenza di genere, che è sempre così profondamente sentita. Negli anni ha avuto il sostegno anche dagli enti pubblici, dalla Fondazione Cariplo, ha un sacco di collaborazioni intorno, di varie associazioni, compagnie, enti che sostengono un progetto che vuole essenzialmente essere un progetto sociale di discussione, di sguardo sulle cose ad occhi aperti. È cominciato quindi, continua anche con quell'aspetto verso la violenza verso i più deboli, i soggetti cosiddetti altri, da appunto donne, anziani, bambini, ma anche le violenze verso popoli. Quindi le narrazioni questa volta, gli spettacoli che sono particolarmente rivolti ai diritti nel mondo, vengono esplicitati attraverso testi, memorie, storie di persone e di territori. Sì. Sembrano apparentemente lontani, ma in realtà sono molto vicini. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti della scelta di intanto il focus sui diritti e poi la scelta di questi tre spettacoli. Sì, in realtà abbiamo già cominciato, la rassegna è cominciata con uno spettacolo Marianne Faithfull su questa figura degli anni 60, musicista, che ha avuto una vicenda particolarissima e con grande forza si è risollevata. Quindi ci sono una serie di tappe, adesso è in scena Lezioni di Filosofia, che è un manuale di sopravvivenza per domestiche, uno spettacolo molto divertente con Margherita Antonelli, che viene da una figura di Zelig del cabaret, ma poi ha sviluppato secondo una pratica più teatrale, diciamo, quindi più complessa. La scelta degli spettacoli viene, in questo caso mi si sono presentati proprio dei lavori, questo focus diritti nel mondo è stato perché c'è una forte attenzione, ci sono anche grosse comunità all'interno di una città di Milano così grande, verso episodi così violenti nel Novecento, che è stato veramente un secolo pieno di ombre oscure, oscuro. Questo lavoro di tante compagnie e associazioni verso queste tematiche mi ha colpito, quindi li ho raggruppati e assolutamente messi in un contenitore come questo che parla di diritti umani e di libertà e Sì. insomma, e di difesa dell'individuo e Sì. della sua identità. Sì. Ci lasci anche tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, allora noi abbiamo il sito www.pacta.org dove potete trovare tutto. Il nostro teatro è Pacta Salone, che abbiamo riaperto dopo ristrutturazione la stagione passata, ed è in via Ulisse Dini 7 a Milano. Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento con Donne Teatro Diritti, il Focus Diritti nel Mondo, con tre spettacoli di teatro civile dal 26 marzo al Pacta Salone. Annig, io ti ringrazio, un abbraccio, a Grazie risentirci presto. a te. D'accordo, arrivederci, grazie.